Attenzione, attenzione, canali 1, ripeto, ripeto, attenzione, attenzione, canali 10, canali 10, qualcuno. Qualcuno che sinistra e dice queste cose, quindi sono maleducato, però permettimi di dirtelo che adesso c'è una radio, prima faceva schifo, vai Gianni. Ma partiamo dal presupposto, adesso la radio va benissimo, ma partiamo dal presupposto che se ce l'ha il processore lo devi usare, magari regolandolo riesce a uscire meglio, non lo so, forse vorrà regolato il Mikey Gay, non lo so. Già, ce l'ha uno il Mikey Gay, cosa le regoli? Io figurati sto usando la stessa radio che sta usando lui. Il Mikey Gay ce l'ho a 2 con l'MC60. Quindi dipende sempre dalla voce, Lui c'ha, non c'ha alti, non c'ha toni acuti, c'ha solo toni bassi e manda in distorsione la radio col processore. Quindi la devi usare senza processore. Non so che dire, però non lo so se dipende dalla radio o se dipende da lui questo. Perché se il processore ce l'ho dovrà anche usare, se no cosa ce l'ha a fare? La stessa cosa di avere una Maserati e usare il motore come una 500, farlo andare a 60 all'ora. Allora prova a togliere quel microfono Riccardo, togli quel microfono e metti il più 2, vai. Allora provo a portare il più 2 da sotto, adesso lo prendo e vi faccio sentire il più 2. Vai che ci sono io con Gianni, così lo regoli una volta e lasci un microfono, perché quel microfono lì a te non ti si addice, vai, rifacciamo le prove col processore inserito. Sì, perché se ce l'ho lo devi usare, c'è poco da fare. O è troppo alto il processore, regolato male, oppure perché quasi sembra che inneschi quando parla, da quante fonti. Sì, sì, ma poi non c'ha nessuna tonalità, è tutto impastato quando parla, io non capivo un accidente, capito? Quindi adesso si fa la regolazione e vediamo un po'. Io gli avevo detto anche prenditi un microfono come questo che sto usando io, può darsi che vada meglio. Perché c'è l'adattatore di impedenza 50-500, si cerca insomma di giostrare, però non lo so, adesso vediamo con l'altro microfono già. E tu non sei uscito? Adesso sto tornando, è un cavo lo si busca, sto tornando adesso, sono uscito in cazzo di non mi ha funzionato, c'era troppo caldo, sono andato al rifornitore a carica a mettere il gas, la macchina. Poi ho fatto un giro, sono andato perché mi aveva detto Roberto che c'era un'antenna nera per la macchina e sono andato a vederla da quello tipo mercatino delle Pucci, però quello che c'è vicino la piazzetta. Ah, un antennino di cavo, è quanto la mia, quanto quella che c'ho io, cosa me la compro a fare così? Non serve a nulla. È piccolina pure il cielo, dopo non mi sa che non è manco per la 27 con l'antenna, c'ha un giro tipo quello dei carabinieri, ce l'ha presente, che c'ha un giro, una molla che gira leggera leggera, non è una molla grossa, una molla leggera che gira e poi c'è l'antenna nera, senza essere caricata di nulla. No, ce l'ho anch'io quella già, mi ce l'ho nella massa della finestra giusto per ricevere, quella antenna VU. Anzi, quella se c'ha solo una spirale, un giro solo è UHF quella. Capito? È proprio come quella che usavano una volta i carabinieri. Quella è UHF, è fatto bene a non comprarla, sennò ti aiuti. Bisogna trovare una di quelle che ho dato io a Piuccetto, non c'è niente da fare. Dove trovarla è un problema, però bisogna mettersi in moto e trovare una di quelle già. Attenzione Claudio. Oh, Riccardino mio, perfetto. Stai usando il più 2? Sì, sto usando le stesse regolazioni, il processore tolto, e il Mickey Game sempre a 3 e il car a Santiago 5. Perfetto, il car non lo toccare mai. Allora, inserisci di nuovo il processore, vediamo se dobbiamo abbassare il Mickey Game. Ok, va bene, adesso ho il processore inserito su più 2. Perfetto, adesso rimetti il processore a 2. Il Mikey Gain a 2. Ok, adesso ho rimesso il Mikey Gain a 2. Oh, vedi che stai scendo molto, ma molto, molto meglio. E il microfono a quanto ce l'hai? A 4? Sì, ce l'ho a 4 il microfono. Come lo uso io praticamente a 4, l'avevo provato io a 4. Gianni? Stiamo bene, adesso va bene, anche appena appena più basso, anche poco poco più basso, più chiaro. No, ma va molto meglio dell'altro. Ma passalo appena appena, Riccardì. A due scarso mettilo, uno e mezzo, dai. Ma cosa, quello del più due? No, no, no, il più due lascialo così. Il Mickey Game della radio, mettilo a uno e mezzo. A due scarso. Ok, adesso l'ho messo come l'hai detto tu, il Mickey Game. Guarda, Riccardì, se fai toccare questa radio da chiunque, veramente mi adiro, Adesso stai uscendo bene, adesso sei tu veramente. No, non toccare più quel microfono, lascia quel microfono e queste regolazioni. Non tocca se... E come sempre sto parlando tranquillamente a 50 centimetri. Perfetto, 50-30 centimetri, con quello è un altro tipo di microfono, capito? Ciao, Eda. Lascia stare tutto così, che stai uscendo divinamente bene rispetto a prima, sì, dal giorno alla notte, Ricca. Va bene, grazie Claudio, già non tocco niente. Non tocca. Eh già, guarda quanto è più bella la modulazione. È bella chiara adesso, non è come prima, pum pum pum pum pum, era troppo forte, pum. Addirittura sembra qualcosa che innesca se la porta da fuori. Infatti io si portava presso un sacco di rumori, un sacco di cose e la modulazione non era bella. Capito? Se Roberto ti dice cosa stai usando, dille Claudio mi ha fatto mettere il tanne più due perché quell'altro microfono che avevo, per capirci, non va bene, è troppo forte. Ehi, va bene, no, non faccio toccare niente da nessuno, se sta andando bene così lascio stare. Ehi, ma non bene, no, benissimo stai andando. Gianni! Ehi! Comunque l'ho vista subito quell'antenna, quella che stavi dicendo tu, come l'ha vista babbo, io e babbo, abbiamo detto subito quella non è per la 27, che sembrava proprio 144 come ha detto Claudio VHF, e invece Roberto infatti è per quello che sei andato, perché ti ha detto che sembrava che era per la 27. Ehi, perché io la volevo nera, capito, per mettere la macchina. Certo la metterò quando c'è gente, perché adesso devo, quello che mi rode è che devo fare l'impianto elettrico, lo farò fare sicuramente da qualcuno che ce l'intende, perché deve passare i fili eccetera eccetera, la macchina è nuova, non potevo più. Già, dall'elettrauto, la porti all'elettrauto e gliela fai fare bene, capito? Come avevi fatto fare con l'altra? Se poi ti serve il rondellone, che vuoi fare quel lavoro che avevi fatto anche nell'altra macchina, ce l'ho io in acciaio inossidabile, un bel rondellone grosso. Ce l'ho anche io, qua, ma piccolo non è faccio, no, mi metto l'antenna magnetica. Mi metto l'antenna magnetica, però l'attacco almeno elettrico me lo lascio fisso, capito? Non posso usare con pittura città. Qualche elettrico ve lo metto in terra e poi il giorno che mi deciderò se ne varrà la pena magari la metto dietro, cosa ti devo dire? Ne ha una la GBC nera, mi pare che mi compro quella, costa 60 euro, però di quelle di Midland, di quelle, cosa ti posso dire, sarà un 65. Dovrebbe andare bene anche quella. Io già sai che cosa avevo fatto, avevo portato il rosso e il nero dalla batteria quando avevo l'Audi, no? E nell'altra non l'avevo fatto, in quella da battaglia, però nell'Audi avevo portato il rosso e il nero dalla batteria, me l'avevo portato l'elettrauto, portato dentro, fatto uscire nel cassettino, con un forellino leggero leggero dove proprio passava solo il filo rosso e nero, e poi messe due bananine, rosso e nero. Nella radio avevo la bananine rosso e nero, e quando la macchina era ferma da qualche parte parcheggiata staccavo le bananine e me la portavo via, capito? E perché io non ce l'avevo così nell'altro, ce l'avevo così con le bananine fermi, le attaccavo i maschi ed era sempre a posto, dai. Ma io dico la verità, nell'altra macchina andava più bene il piatto, già lo sai, l'avevo fatto io. Il coso dell'elettrauto mi aveva fatto quello dello stereo, no? Io me l'avevo passato io il cavo, però ho comprato il cavo da lui, era quello praticamente che si vede il rame col filo trasparente, quello che usano loro per gli attacchi per lo stereo, là. Ah, esatto, quelli netti, sì. Va bene già, fatelo, fai l'impianto di alimentazione, lo fai bene. La base magnetica, quando esci, la lasci nel dietro, quando esci l'agganci, quando rientri la butti sopra il sedile. Ma il tappeto, come si faceva un tempo, vai? E tu, Riccardino, sei andato a volare oggi? No, oggi no, stavamo sistemando qua in stazione e poi dovevamo fare altro, dove dovevamo andare? Dovevamo andare a sistemare la ciulla per il campeggio, a controllare se stava prendendo il gas, perché bisogna mettere il gas per il frigo. Ho capito, vi state organizzando, dai, va bene, va bene. Pensavo che non c'eri, infatti avevo la radio accesa e ti ho sentito parlare con Gianni, però sinceramente ti capivo poco, in lontananza. Poi mi sono avvicinato, ho visto che stai uscendo veramente molto male, adesso stai uscendo benissimo, non ho poche, se lascia tutto così, capito già, va bene, anche perché tu magari ti muovi in macchina, io poco la uso la macchina, però tu muovendoti in macchina magari c'è il baracchino, anche se non avevo dubbi che c'era un calo allucinante dopo questa cosa, però hai visto la TV a Catanzaro, a Bologna, in Calabria si è aperto un altro focolaio di nuovo. Ho visto, la gente se ne frega e poi si lamentano che si dà, ma per dire, non so dove, a Bologna mi pare, non dipende dagli italiani, dipende da quegli stranieri che ci sono in quel palazzo che hanno occupato, perché loro, gli stranieri, ho coronavirus. C'è stato un casino lì con i bulgari, lo so, però già io quello che sto vedendo, o perlomeno per dire più la verità, quello che sta vedendo mia figlia che lavora nel settore bar, non hanno nessuna niente restrizione, nulla, al bar si entra senza mascherina, si sta tutti vicino, si siedono sui tavolini tutti vicino, si fuma uno attaccato all'altro, già è molto molto pericolosa questa cosa, non abbiamo ancora capito niente, non so perché stia succedendo questo, però non abbiamo capito niente, io non capisco perché i bar si stiano comportando così, tu entri nei supermarket e devi disinfettarti le mani, usare la mascherina perché se non ti fanno entrare, tutti dentro, non c'è più quella riccia che c'era prima, tutti con la mascherina, accanto tu vai al bar, io stamattina sono andato al Tris, tutti senza mascherina, tutti ammontonati, come se non fosse successo niente. Io quando sabato scorso in pizzeria c'era una tavolata che se ne fregava del coronavirus, erano tante famiglie con bambini e cose, una tavolata enorme, tutti uno attaccato all'altro senza mascherina, e infatti l'ho fatto notare che c'era con me, ho detto guarda se ne stanno fregando le palle tutti, io dico vabbè devi mangiare, te la devi togliere la mascherina, normale puoi mangiare con la mascherina. Però, cavolo, stare così tutti attaccati non è giusto, dai. Non dico il nome della pizzeria, però li ho visti tutti uno attaccato all'altro. Lo so, perché se ne stanno fottendo le balle già. Vedrai tu che non terminiamo l'estate, che avremo nuovamente le restrizioni che avevamo prima, e ci sarà nuovamente un grandissimo casino. Io spero di no, perché per carità, stare altre due mesi dentro casa rinchiuso è brutto, per tutti, non solo per me. Però a un certo punto l'abbiamo voluto noi, perché non abbiamo fatto niente per migliorare. Vai Riccardi. Già ho questi problemi, come è finito anche l'ultima volta quando ha vinto, cos'era, Napoli Juventus, va bene, ma intendo di calcio, che sono andati a festeggiare in piazza urlando a Napoli. Quando hanno vinto la coppa, purtroppo è così, però vedi, su Napoli hanno fatto un grandissimo lavoro durante la quarantena e poi si sono sporcati, perché una cosa del genere non si può fare, assolutamente, però l'hanno fatto e adesso sta succedendo la stessa cosa in Calabria, sta succedendo la stessa cosa in Alta Italia, a Bologna, e quindi a un certo punto non è che siamo all'estero, a Madrid o in Spagna, siamo in Italia e quindi è molto pericoloso, ci vuole pochissimo arrivare nuovamente la pandemia in Sardegna, sta andando molto molto male questa cosa. Sì, basta che venga uno che è contagiato qua, non te ne sticare. Poi adesso ci sono le frontiere aperte, non c'è nessun controllo, non c'è nulla. Che stavo andando bene, io l'avrei chiusa la Sardegna, non avrei fatto entrare nessuno a costo di guadagnare meno. Lo so che anche per chi c'ha il villaggio turistico, cioè queste cose sono problemi grossi, però è più interessante la salute di su. Sì, oh, sento la voce sotto, io non ho capito. Sì, Gianni, è così. Cioè ci vuole molta attenzione, perché è inutile che ce ne fottiamo, è passato tutto, quella, non è così. Il picco è salito nuovamente a 1, eravamo sotto l'1 abbondante, è salito nuovamente a 1, vuol dire che non è finita. Ci sono stati quasi 300 casi tra Bologna, Grosseto, quelle due città in Calabria, poi c'è stato un paese anche in provincia di sempre di Reggio Calabria, in tutto quasi 300 contagi su mi pare 800-900 tamponi. Ok, quindi attenzione che sta arrivando nuovamente il pericolo. Ma infatti mi sento anch'io con le voci, non essere comparativo. Bisogna stare molto attenti, addirittura delle turiste che sono venute qua hanno detto che quando sono sbarcati non gli hanno manco controllato la febbre, niente, se avevano temperatura, nulla, proprio sono passati lì. Ma scusa Ricca, ti rilascio subito, ma guarda che c'è stata, l'ordinanza era nell'apertura dei bar che ogni gestore o titolare del bar doveva controllare la temperatura all'ingresso dei clienti, capito? Questo non è stato, non c'era nessuno, te la controlla niente nessuno, non era fatto nulla di nessuno. Io stamattina sono andato al Trish Bar, sono entrato perché in macchina non me ne metto, non serve a niente, se sono da solo non me ne metto, ma quando entro nel locale me la metto la mascherina. Mi ho messo la mascherina prima di entrare, che tra l'altro l'ho comprata nuovo ieri proprio in farmacia, a prendermi le sigarette, il caffè me l'avevo già preso a casa, a prendermi le sigarette, e in pratica c'era tutta gente seduta dentro, dal bancone c'erano tre persone senza mascherina, dentro non c'era uno con la mascherina, l'unico imbecille ero io. Non va bene così, scusami. Avanti Ricca. Già lo so che stanno facendo i furbi, non ho neanche voglia. Tipo quel mercatino dove è andato a vedere Gianni il microfono, c'erano quelli senza mascherina così girando che si vedevano sputacchi volare dappertutto. Ma poi anche la proprietaria non ne ha mascherina. Soprattutto lei che non ne ha mascherina, e poi c'erano anche gli altri, quelli che se la abbassavano, vabbè, e intanto la proprietaria non ce l'aveva quella. Io sono entrato con la mascherina, ho visto che c'era tutta gente, no, c'era un signore anziano con un cane e c'aveva la mascherina, e poi c'erano altri due o tre che non ne avevano, stavano girando così, toccando, se tutti si mettessero le mani, stavano. Poi è diventato una specie di mutinaggio anche quello, tipo quello che chiama Graziano, che chiama il Viduco, che poi si chiama Mercatino di Viduci. Però è diventato così, tutta roba a pari mondezza, lampada, luci, prima era tutto ordinato quello, adesso sta diventando un mondezza. Lo so Gianni, lo so. Io prima ci andavo a vedere se c'era qualcosa vintage, eccetera, poi non sono più andato proprio per quello, sa di sporco, sa di... Poi in questo contesto della patologia del coronavirus è chiaro che non puoi andare in certi posti dove sai che c'è sporco, non c'è pulizia, eccetera, è molto pericoloso, ancora più pericoloso di quanto possa essere fuori all'esterno o frequentare altri locali, capite? Perché entrano di tutto, lì è tutta roba che magari non hanno manco disinfettato, e quindi è un casino, perciò non ci sono più andato. Tutto qua. Sì, ma quella, se uno fa la segnalazione, no? Fa la segnalazione ai vigili urbani, al comando della polizia municipale, dove dice guardate che in questo locale i titolari sono tutti e due senza mascherina all'interno, non stanno seguendo le direttive, ok, di igiene, quindi andate per cortesia e fate un controllo. Lì succede un casino, perché glielo chiudono, loro devono stare con la mascherina. e obbligare a chi entra a mettere la mascherina e a disinfettarsi le mani. Questo è legge, sino a quando non finisce tutto è legge per tutti i locali pubblici, qualsiasi tipo di locale pubblico, capito già? Io ho visto per dire che avevano il caffè, sono tutti belli separati, tavoline e cose. Però ho visto con la pizzeria erano tutti ammontonati, hanno unito 4-5 tavoli, erano fatte famiglie, ridendo, scherzando, quello che vuoi, però cazzo, sempre tutti attaccati e senza mascherina, non esiste, perché se no loro si fanno i clienti, capito? Perché se non attaccano i tavoli, i clienti mi li avvicinano, perché loro vogliono stare tutti insieme per scappiare, per fare come si fanno. Però adesso non è più possibile fare certe cose, come non è possibile abbracciarsi, fare tutte queste cose. Io per dire, un altro giorno ho trovato un amico che non vedevo da 20 anni, che non ho più dove giusto in conto. Gianni, cosa facevo? Non gliela toccavo la mano, è venuto con la mano tesa. Gliel'ho toccata, poi ci ho pensato, toccata la mano, non gliela dovevo toccare, va bene. L'avrei deluso se non l'avessi toccata la mano. Ho capito, però anche lì sono errori che facciamo così istintamente, perché è chiaro, dopo che non vedi una persona tanto tempo e vai a stringere la mano, è capitato anche a me, e pazienza, poi io subito mi disinfetto, perché ce l'ho anche in macchina la mucchina, quella piccola, a casa c'ho quella grande, capito, ma guanti non ne ho mai usati, perciò, però, a prescindere da quello, ogni gestore di qualsiasi cosa deve obbligare sia il personale interno, sia i clienti e loro soprattutto ad usare la mascherina internamente, perché altrimenti c'è la multa, non so di quanto, e la chiusura del locale per 15 giorni. Tutto qua. Quindi o stiamo attenti o veramente ci troviamo di nuovo come eravamo prima, sono sicuro al 100%, guarda, perché è già partito nuovamente questo Covid-19 sia in Alta Italia e sia anche da altre parti della... Speriamo che non arrivi in Sardegna, non lo so, avanti Ricca. Già lo so, speriamo che non ritorni, che sia... che non ritorni, che era l'ultimo round già dall'altra già dall'ultima volta, perché come abbiamo detto lo so che ormai se ne stanno fregando, che pensavo che se ne è andato e poi arriva il secondo round. E se prima siamo stati in casa per 3 mesi col fresco, adesso c'è anche il caldo, cazzo, se viene col caldo guai, se viene col caldo crepiamo in casa. Ma lo so già, non si può, almeno tipo uno in città non so se riesce a resistere, e meno male, non per vantare, però almeno c'è qualcuno può avere la piscina o qualcos'altro, perché sennò io non sarei sopravvissuto in città. Vabbè, voi ci avete la comodità, che avete la piscina, perché fate tutti fuori. Ma noi, per dire, siamo in città, e cosa fai? Noi, muori di gatto. Io me ne stavo scendendo in cortile, col cane, non uscivo col cane. Cioè, non uscivo nemmeno col cane, uscivo solo in cortile, lo portavo a fare i bisogni. Io la stessa cosa già, qua nel giardino di casa, nel cortile, così chiamato, e basta, e boh. Poi la mattina mi mettevo la mascherina, andavo qua a piazzetta di carbonati con le mie sigarette, mi dico che erano chiuse, non c'era niente, una cosa allucinante, e rientravo a casa, tutto il giorno a casa, però cioè, questa volta se veramente dovesse riniziare, io penso che ci danno una bella stangata, a prescindere da quello che possa succedere, che la gente ancora non si è ripresa dalla prima stangata, immaginati tu una seconda stangata, succederebbe veramente il finimondo, nel senso che molte aziende non ce la faranno più a riaprire, quindi io mi auguro e spero che non sia così, Ieri, cambiando discorso, ho portato a testa un altro tamone. Sono sceso, l'ho fatto scendere dalla macchina. C'erano due bulldog, però francesi, bellini. Ah, casa e erano tranquilli. Avevo quattro cani randagi, quelli che stavano lì a Plattavona. Vigliacchi da dietro stavano arrivando. Cazzo, era fatto i pugni tutti e tre, taccio. Cazzo, mo' così avventato, uia. Non riuscivo a fermarlo, su quattro zampe ci alzano. Lei ha fatto bene, bisogna difenderci, quei cani sono cattivi Gianni, sono cattivi, perché ce l'avevi a guinzaglio, ho capito, e quindi loro si trattengono, ma se il cane è libero che partono in quattro, te lo fanno a pezzi, sono cattivi, ma cattivi davvero, cattivi, c'è stata anche una petizione in consiglio comunale proprio per quei cani lì, infatti c'erano i baracilli che stavano lavorando molto su quella zona, la zoofila, però non possono fare molto perché ne portano via due, ce ne sono altre sei, capito? Soprattutto lì alla rotonda, dove c'è il vecchio Lido, vecchio, capito? Quella zona lì, stanno tutti lì, e poi venili, tutti in corso, proprio andare la notte a vedere cosa c'è. È un casino, bisogna stare molto attenti, molto, sono pericolosissimi quei cani. Quindi quando vai lì tieni la guinzaglio, ci sei tu, lui è chiaro che si sente protetto, quindi si difende, però non lo mollà, perché quei cani sono veramente cattivi. C'è quello bianco lì e quello nero, sono omicidiali, quindi sono degli incroci di mare in mano, chissà da cazzo sono arrivati. Mi hanno detto che sono cattivissimi, cattivissimi. Avanti Riccardi. C'era qualcuno che faceva ola ola quando parlava. Ragione, se uno si mette in banda laterale, o che anche due civili, anche se non è con gli uomini, se qualcuno che è in stato extra, non va più, si chiama banda laterale, qualcuno che riesce a fare. Io l'avevo sentito Vanino, però ho cercato di ignorarlo, quindi non c'è problema, intanto guarda io il mio passaggio me l'ho fatto, sto già chiudendo e vado a farmi un giretto col cane, a proposito di cani, quindi allora a tutti buona serata, tanto inutile stare a discutere, a fare, ecco, questo la gente non lo vede cosa sta normalmente succedendo in radio, vedono cose che non devono vedere o cose che non devono sentire, però va bene lo stesso, dai, un abbraccio a tutti, buon proseguo di serata, cambio per te Riccardino, ciao Vannino, ciao Claudio, Gianni. Ciao Claudio, ciao, buona serata, dai, ci sentiamo, buona passeggiata, avanti Vannino, ciao, buonasera. Ciao, ciao Vannino, buon divertimento. Ciao Vannino e ciao Claudio. Oh già. Ehi. È vero, cosa mi racconti? Cosa ti racconto? Sono accaldato. Ho voglia di andare al mare. Però guarda, lo farei volentieri andare stasera con la canna da pesca e andare a fare una bella pescata. Però non ho comprato l'esca, adesso per i giorni mi compro l'esca e vado. Perché ho trovato tutta la attrezzatura, tutto quanto. Adesso non faccio altro che mettere in produzione di cibo, gli uomini e le mie, e sto partendo. Ma devi andare a comprare le esche. Beh. E vado a prendere due pastelle. No, la pesca che faccio io è particolare. Io metto i vermi americani tutti interi nell'amo con la parte che guizza, capito? L'ultima parte la lascio libera nei pinti e faccio pesca lorata, pesca d'aspetto, capito? Ho capito. Che regarda! Regarda! Sì, stavo guardando una notifica! Cosa Riccardi? Stavo guardando una notifica che mi arrivano di quelle strane, tipo università online sulle mail. Allora Riccardi, non aprire mai quelle che stanno mandando il vito un telefono, questo e quell'altro. Non le aprire mai perché ci sono i virus in quelli lì, Occhio! Lo so che c'è il Covid-19 lì dentro. E magari anche il vito. A parte che ti chiedono sempre i soldi, lo fanno per prenderti tutti i tuoi dati, lo sai. Quando metti i dati per mandare il telefono a casa, quindi riesci a aprire il telefono, invece ti prendono i dati. Sì, servono dei pedati per fare cazzate, si rubano Facebook per dire il profilo, eccetera. Oh già, ma lo senti questo che stai dicendo a Prova Radio? Avanti, avanti, mi sembra Fabio. Fabio, tu sei? Se mi ascolti stai uscendo basso, basso, basso. Si sente proprio per miracolo. Ma sicuramente in un altro canale, mi sembra Giulio. A me sembra Fabio. Vediamo chi vince. No, no, bello bello già. Questo è Giulio. Gianni! Oh, ya! Yeah. Prova a farti un giretto a vedere se in che canale è più forte. Chi è che chiama il canale 10? 5, 5, 5. Tutto male. Male, un bel male, mi sento male. Chi è, avanti? Una Sabrina e la penisola Ibera, e Yama. Bobo. Oggi mi sono mangiato un pacco di gelati. Cosa già, non ho capito. Che mi sono mangiato un pacco tra ghiaccioli, pinguini, cornetti, un pacco di trigo. Gaffa. Io mi sono mangiato il magnum e anche l'affogato. No, io mi ho preso un pacco di ghiaccioli, un pacco di cornetti e un pacco di biscotti gelati, tutti spariti. Dove sei andato a prenderli? Alla CRAI? Ah, quella vicino a casa? No, quella che c'è vicino a casa mia, di Florina. Ah, ho capito, quella vicina al latte dolce. No. Oh, già ho capito, vabbè, non è latte dolce, però ho capito qual è, ho capito. In via Florina, sale dalla mia Valletta, sali quella traversa che c'è dove c'è il tabacchino, sali su quella via Florina. Ho capito, ho capito. Perché se venivi nella CRAI su vicino a dove c'è Marco, di solito lì io ci sono. Fanno anche biscotti, gelati. Adesso, per dire, noi alla Simpi, dove lavoravo io, ci sono gli scotti. Mi pare che prendi due e paghi uno. È anche buona l'offerta, prendi uno e paghi due. Yeah, avanti. Ciao Stefano, come mai così basso? Ah, ciao. Ma che altro hai messo nel camper? Non c'era il Turbo 2001 nel camper, giusto? E allora metti, conviene prendere lana d'acciaio e CRC, bagni lana d'acciaio con CRC e la sfrigli. E poi gli faccio uno straccio, vedrai che riesco tutte le stazionali. Cappa, lo stavate usando il campo. Cappa, cappa. E vai dove c'è Eugenio di Porto Torres e quelli lì, sono ben numerosi. Si trovano anche lì dove c'è aria camper e avvisi una cosa, eccetera. Beh, adesso come adesso sì, basso, basso, basso, un bel basso. Prova di segnale a vedere. Beh, 6-5 di segnale, 6-5 di segnale, la radio è 2. Ehi, fallo modificare, per essere un po' forte. Gianni! Ehi, aspetta che Stefano sta provando un apparecchio di cambio. Ehi, no, vabbè, lo saluto anche, ciao Stefano, comunque, se stai ascoltando, se non è che stai cambiando apparato, e mi sa che... Aspetta, scusa, ho acceso l'altro. Io mi sa che forse non sarà la DDX. Allora, sì, salito è salito. La radio è 3 volte meglio. E poi il segnale è salito a 7, dai. È salito a 7, però è ancora basso, perché dove sei tu? E allora non c'è sfogo, stai, cosa pretendi? Se andate in garage, per un muro, come fa a sfogare? Non può sfogare. Oh. Tu conta che io dalla macchina, dal portatore, ci arrivavo 995 con l'antenna Turbo 2001 e l'apparato modificato, 95 K, sì, però è troppo basso il segnale, non sta rendendo l'antenna, o è perché dentro il coso, se è dentro è normale che non sfoghi e non riesca a far uscire le onde, si sbattono al muro praticamente. Dovresti portarlo fuori il camper, ma mette in moto, sì. No, magari lasciamelo fermo, si è scaricata la batteria, tu mi hai detto che era molto più fermo. Ma lo stiro gliel'hai pulito, perché quello che porta a stazionare è lo stiro quando si sporca. Se tu lo stiro lo pulisci con la lanacciaio, come ti ho detto io, con CMC, con la lanacciaio, ti passi due o tre volte la lanacciaio e poi li passi lo straccetto sopra, ritorna lucida lucida l'antenna e ti vedi il nero che c'è. Guarda, sembra così, ma con la roba lì ce la respiriamo anche noi, tutto lo smog delle macchine, delle cose che passano. Bianco per me, scusate. Prova, poi lo proviamo dopo che lo fai, a vedere se cambia la situazione. Riccardino si è allontanato un attimo, comunque anche loro sono campisti. Oltretutto Riccardino vola col parapendio, gappa, quindi le piacciono molto lo sport all'aria aperta, dai. Ti piace l'aria aperta. E vabbè, stai, prova, ci dai, toglila questa antenna, Riccardino si è allontanato un attimo, toglila, la pulisci come ti ho detto io, con una lana d'acciaio e un po' di CRC, in modo che la pulisca bene. Io la pulivo così e ti dirò che senza smontarlo mi lo stilo, praticamente se lo stilo senza togliere le brughe, le cose. E vedrai che a me quando mi segnava l'ABI di colore rosso, la pulivo, poi li misuravo le stazionare e si muoveva appena appena da uno in uno. Stefano, sono tornato. Prova, vedrai che sarai più fortunato. Allora, con la storia del Covid era pieno di gente, tutti stavano rispolverando baracchini, gente che ci mancava tanti anni, entrata. Poi come si è abbassato un po' il livello di contagio, di cose, hanno cominciato a sparire. Comunque siamo rimasti tutti, vecchi siamo rimasti tutti, ci siamo tutti, c'è Giulio, ci sono io, c'è Claudio, c'è Luca, insomma un po' tutti, Tino Muscolo, Luca Flipper, un po' tutti ci siamo. Anche io, il vecchio del villaggio. Poi ci abbiamo Riccardino che è la nostra mascotte. Riccardino c'ha 14 anni, capa, e che passione che c'ha, vero Riccardino, ti abbiamo contagiato. Vero, ha ragione Gianni. Ah, quindi hai capito, anche tu sei entrato come me e qualcun altro nel team Orecchie di Porco. Riccardino non gli manca la battuta, eh. A 14 anni è bello al dito. Cavagama, c'ha una bella collezione, c'ha Riccardino, sta sempre tirando apparati vintage, eccetera, eccetera, ne ha abbastanza. Microfoni, apparati, quanto ne vuoi? Sì, ma in effetti dovrebbe rinascere questa cosa, perché il telefonino è troppo freddo, WhatsApp, tutte queste cose qua, sì, ci parli, cose, ma sono cose fredde, non mi piacciono, a me piace più parlare all'apparato, che così mi vedo gli apparecchi davanti, e la mia passione è quella, vedere gli apparecchi, perché io ho apparecchi che ho comprato proprio perché mi piacciono, non solo perché escono bene, perché mi piacciono gli apparecchi, mi devono piacere, se no non è freddo. Oh già. In effetti sì, dimmi. Che anche io l'apparato lo compro perché mi piace, poi se c'è bene me lo tengo, vabbè, anche una buona cosa, se male mi piace per estetica. E infatti te lo metti nella vestita. Io sto uscendo la zona alta di Sassari, sono più o meno vicino a Gianni, ho praticamente un'antenna Sirio Blizzard 2700 5 ottavi d'onda. Quando ti arriva Riccardino? Io quando ti arrivo, guarda quando ti arrivo io, quando ti arriva Riccardino. Ok, vengo avanti e vediamo questo passaggio se sono più forte di Gianni. Quanti watt c'hai Riccardino? Io ho 9 watt. Allora sta arrivando più forte Gianni, io sto usando 15 watt. Più o meno siamo lì, dai. Vabbè. No, ma io e Riccardino solitamente arriviamo quasi alla pari, mi fa piacere, dai. Mangia tranquilla vita, poi ci salutiamo. Intanto tu svolta l'antenna e puliscila come ti ho detto, così almeno vediamo un po' la differenza. No, ma dico smontato dall'attacco che c'hai, non dalle brugole, dall'attacco, non c'è la farfalla per smontare. Invece ti viene bene a pulirla così, la allunghi e la pulisci. E così facevo io, ogni volta che mi lavavo la macchina, toglievo il CRC, ce l'avevo in macchina con la lana d'acciaio e la pulivo. E usciva una meraviglia con l'antenna. Ma l'antenna riesce, ho fatto la mantova, perché io con la mantova avevo lo stesso segnale di come uscivo dalla macchina con quell'antenna, da sotto casa. Sì, ma infatti. Io adesso mi sono comprato la macchina nuova, non la voglio bucare, se no, cavolo, con l'antenna è un mostro. Io addirittura attorno, dove ho visto dove c'è scritto la città Turbo 2001, sotto e sopra gli avevo messo il silicone per non entrare acqua, l'avevo aperta, pulita bene la mole interna, poi l'ho chiusa e l'ho tutta silicolata con silicone trasparente che non si vede nulla, di modo che non entrasse acqua dentro con l'umidità eccetera eccetera. Gaffa gaffa, ma tu sei troppo scheda, che zona stai modulando? BD, te lo dico io, da BD. Ah boh. Ciao Rita, e beh. E allora che fine abbiamo fatto? Bobo, ti sei fatta proprio desiderare. Cos'è? Sempre il cinema era fatto. CB Talk stanno usando, mamma mia, a me non mi piace. È troppo freddo davvero. Poi questi continentali non li puoi fare una battuta e si offendono subito. Una volta ha detto, c'è qualcuno in questo canile, come facevamo noi? Brutto, maleducato, che non sei altro, quando fai la rieducazione potrai entrare qua. Perché c'è, sì, c'è la cantina, c'è, sì, lo so. L'ho usata anch'io, poi l'ho tolto, perché, lo sai quando l'ho usata? All'ospedale, quando l'ho ricoverata all'ospedale, perché mi hanno operato. Lo usavo lì perché non c'avevo baracchino e quindi mi faceva comodo, capito? Perché ci sono quelli, ci sono i canali dove parli con Sassa di cose, e poi ci sono proprio le cose, le stanze dove ci sono diverse persone, la continente, eccetera. Ci sono anche i camionisti, stavo usando quel dual mic qua. Scusate se disturbo un attimo il bianco. Adesso lì se ci sono certi canali, se non c'è il dual mic non puoi entrare. Guarda che ultimamente stavamo anche sin da luna di notte parlando, cosa non c'è così di più, ma specialmente con la storia del coronavirus, tutti hanno spolverato questi baracchini, hanno riattaccato, messo antenne nuove, un sacco di gente c'era. E a Riccardino è un bel appassionato, dai. È diventato un collezionista di radio vintage, mi piacciono molto le radio vintage e io gliene ho fatto comprare una bellissima, molto bella, che aveva il microfono in metallo, cromato, e una bella radio, azzurra metallizzata. Siccome aveva 16 canali, a me non mi serviva, se fosse stata con più canali me l'avrei presa, però per collezione mi serve, capito? Sì, esatto, il padre era un vecchio CD, dai, come si chiama, Vera 21, no, aspetta, Alfa 21, no, negativo, era il TP anni 75-80, penso, no, lì, ha dato le dimissioni, proprio il 25 io dato. Sì, 38 anni, ha dato le dimissioni perché ho avuto un problema alla gamba, mi hanno dovuto operare al femore, c'era un femore consumato, mi hanno messo la protesi, e poi una visita da parte del medico del lavoro mi ha detto che non ero idoneo al lavoro, solo che la stavano tirando alle lunghe, e dovevano fare questa riunione con l'ispettorato del lavoro, poi con il coronavirus praticamente rinviavano sempre questa riunione, adesso l'avevano rimandata a settembre e io sempre senza essere pagato, capito? Non mi davano né liquidazione né nulla, allora mi sono licenziato, quindi sono obbligato a andare. Cosa? Crai e sì, e vabbè, quello che si trova lì. E al posto tuo, visto che c'è sempre quella lì, dove lavoravi tu, cazzo, ragazzo, e vabbè, cosa si vuole fare? La vita è questa, dai. C'è chi vince, c'è chi perde. E cosa devi fare? No, io grazie a Dio... Adesso mi mancano 2 anni per andare in pensione, sino alla pensione, diciamo, ce la faccio a campare tranquillamente con la pensione che ho, adesso c'è una piccola pensione di validità e poi mi daranno anche la liquidazione, quindi sto alla grande. Hanno scritto che malgrado la professionalità non mi potevano dare manco i carichi inferiori perché col problema che avevo la gamba non potevo forzare, eccetera, capito? No, io facevo il femore, mi si è consumato perché tirando pedale di acqua, roba del genere, e lui gli hanno fatto pochi studi. infatti tutti ti dicono se ho fatto il ciclista perché c'ho i muscoli dei polpacci che sono più sviluppati, anche delle gambe. Sì, che ma me li ho sviluppati tirando pesi e facendo, non è il modo giusto di svilupparli. Era meglio andare in palestra per svilupparli. E sei andata alla Silvia a fare la domanda? Da noi alla Silvia sei andata, adesso prendono gli stagionali. Ma l'hai fatta, non ti hanno mai chiamato. Adesso, se non c'è conoscenza è un casino. Io se lo sapevo che l'avevi fatta, magari una parola buona l'avevo rimessa, ma lo sapendo. E nessuno ti ha chiamato. Aspetta che sbaglio. Io l'avevo fatta anche a Città Mercato, ma... e ci avevo conoscenze, però siccome ce n'erano più grosse di quelle che avevo io, e sono passati prima gli anni. E prendiamo la vita come viene, viviamo la giornata. Stefano, la terra pulita. Non gli fa niente, io aiutiamo un attimino e così la pulisce. Che voglio vedere se migliora. Avanti, Riccardino. Riccardino! Oh, yeah, si è allontanato, dai, si è assentato. E vabbè, lì, non entrate, dai, ci fa piacere. C'era Claudio che uscirà poco fa. C'era Claudio, c'era la gente. Solo che oggi mi pare che poca gente è entrata. Però ci sono giornate che stiamo anche fino all'una meno un quarto di notte parlando. Sì, sta entrando anche Luca. Sì, già entra, i giorni quasi. E adesso magari esce con la ragazza, capito? Col caldo che sta facendo, non vi dirò che faccia un po' di freschetto per uscire a mangiarti un gelato e cose. Io già mi rimani a casa, oh! Troppo di più fatti i gelati faccio mangiare. Sì, ce n'era l'altro giorno, ho parlato anche con Marsala, con questi così. Anche le Tenerife, con le Tenerife ho parlato. Ma che cosa quest'anno, ma non più di tanto. Adesso ho messo l'antenna nuova. E niente, state per inaugurare, no? Sì, già, ogni tanto già c'è. Non è che sia tantissima quest'anno, ogni tanto va e viene, non è di quella fissa, capito? Ogni tanto va e viene. Adesso sicuramente dovrebbe entrare anche Claudio perché è andato a portare giù il cane. Io l'ho portato, c'è troppo caldo per tutto. Nel mio si alzano gli ultimi due cursori che ci sono, quei due tastini che ci sono gli ultimi, quelli che ci sono sopra al macchinino, anche io, non sto uscendo adesso con 48, ma già ce l'ho, a voglia che ce l'ho, noia, è minchiata, e lo sai cos'è, che magari hai altre cose da fare, non ci pensi, no, io a me mi fa un po' di compagnia al baracchino, dai, mi fa compagnia. Specialmente la notte mi piace, quando ci sono quel questo tranquilli, pacifici, proprio che tutti parlano serenamente, che non ci sono disturbi, così mi piace. No, adesso sto usando il Galaxy, il Saturn Echo, come sta là. E ciao Rita, mi ha fatto piacere, un bacione, dai. Poi dite a Stefano di rientrare, che voglio sentire. Riccardo, ci sei. Riccardino, Riccardone. E avanti. Mamma mia, sto raschiando. Che vuoi? Chi è che sta raschiando lo microfono? E chi è? Avanti. Gianni. Ehi, Riccardi, che fila avevi fatto? Stavo chiamando più 40 ore. Già andando a mangiare un pezzo d'anguria, c'è un caldo a morire. So che andate a mangiare un pezzo di zingria, si dice. Vabbè, ho preso un po' di anguria, adesso ho il gelato davanti. Bravo, io me ne ho mangiato abbastanza, lascia più. L'anguria già mi piace, anche troppo mi piace. Infatti se me la devo comprare un'anguria buonanotte, ma lo sai perché non la compro? Perché devo fare tutta questa buccia, fare il quadro, un sacco di cose in casa sporcate. Fa tutto il pavimento nero se ti cade qualche goccia. Non la compro per quello, infatti quando la compro sai cosa faccio? La faccio tutta a tocchettini, la buccia ce la butto via subito, così almeno non verrebbe la vita di più. Ho capito, la buccia noi la facciamo raffreddare e diamo al cavallo. La buccia? pesci di Lamucia gli piace molto. Ah. vabbè, se a fuori gli piace perché è dolce, dai. Il cavallo per una cosa dolce, tipo le carote, lo zuccherino a quadretti, gli piace. Già lo so, lo zuccherino gli ho dato poche volte perché finisce subito quando ce l'abbiamo. Sarà come i miei cavalini quando gli do il biscotto, gli dura un giorno il biscotto e non ne hanno più, sta buco di mangia. Mi tocca comprare sempre i biscotti per loro, infatti adesso gli ho messo anche un po' di pane duro e mangerò anche quello, tranquillamente. Ho capito, perché dovrei andare in quei negozi specializzati, di solito li compro su internet, ma come dire, non c'ho gana ogni volta di fare l'ordine per 4 tollette di zucchero. No, magari vengono anche gli alimentari con le tollette di zucchero, le calzini, quelle a quadrini. Boh, non le ho mai viste negli alimentari. Ce l'abbiamo anche noi alla Cintia, a Portatore, ce l'abbiamo anche noi. Me lo ricordo perché li sistemavo io, lo so, ce li abbiamo. Sono impacchi della Eliviana, so. Ah, allora li posso prendere lì, perché io quando vado al supermercato vado sempre nel solito e lì non ci sono, non giro tra i supermercati. Adesso non so se ce l'abbiamo ancora, però noi ce l'avevamo, perché li sistemavo io, me lo ricordo, quando erano i scaffali li sistemavo, quindi lo so di sicuro. Nella Eliviana sono, nella casa, di quella casa del Lunzucchero, quella la migliore che c'è. Ho capito. Le date sono tutte dite così, non valgo quanto su. Prego. Avanti. Venga, facciamo il lavoro, che c'è anche il gatto. Come sta facendo il tuo corpo già? 104 inneschi, così sì, insomma. Ancora ci sono gli inneschi. L'ho cambiato la carta, no. L'ho cambiato, c'è l'innesco. La capsula è buona perché esce bene il radio, però c'è questo innesco. Dovresti vedere se ti fa, forse ci vuole un qualche filo per diciamo per fare per la max, sai? Ho capito, no, siccome ieri notte mi usciva così lo stesso, infatti il cammino mi ha detto, mi diceva che era tutta inneschi. E oggi ho provato, però adesso non lo sento più da qua io l'innesco, prima lo sentivo. No, adesso non lo sta facendo, lo stava facendo all'inizio. No, ma adesso me l'ho spostato, un po' dall'altra parte me l'ho spostato, non sono tornato vicino alle altre radio all'alimentatore. E adesso facendo lo sta. No, adesso va bene, fra. Adesso va bene, forse era troppo vicino all'apparecchio, capito? Che capsula le ha messo, quella verde? Ma quello del telefono di casa, quello bianco. Esce bene, dai, esce bene. Di lusso. Ok, adesso, aspetta, ho acceso una cosa, adesso è sempre normale, no? Non innesca? No, no, non innesca, va bene. Una bella radio, bella profonda, bella grossa. Cappa, dai. Perché ieri notte, quando stavo modulando, innescava, lo sentivo anche qua, lo sentivo, e non c'era rimedio di farlo andare bene. Stamattina ho guardato ed era, probabilmente c'era qualcosa nella capsula di dentro, c'era, e l'ho tolta e già era aperta, l'ho sostituita direttamente. Ciao Fra, adesso sei perfetto. Cappa Riccardo, è lo stesso microfono di l'MPV5. Adesso sta andando bene. Ripeti già. Ho detto, l'hai anche modificata all'interno, oltre alla capsula. No, è tutto originale. Non l'avevo ancora toccato, neanche la capsula. La capsula l'ho toccata oggi, l'ho toccata. È ancora tutto originale. Cappa, no, esce bene, non tocca il viato. Esce bene così. Infatti, no, ma dentro non lo tocco. No, non mi interessa toccarlo dentro. Questo l'ho comprato da poco. Ah. Da chi? Da Fusaro? Sì. Ma la più va a Fusaro, di Fusaro. L'ultimo l'ho fatto comprare a Tonino. L'ho comprato io. E poi non era la più. Ah, no, io l'ho preso, ce l'ho già un mese. Ce l'avrò. A proposito, Riccardo, ho telefonato.